Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. La pacchia è finita per lui, non è finita per noi. La pacchia per noi non esiste. Our house is on fire, but I don't want your hope. I want you to panic. L'indigesto. Notizie e approfondimenti in salsa arancione. Martedì 7 aprile, il 7 aprile è la giornata mondiale della salute che quest'anno, vista la situazione globale che stiamo vivendo, questa pandemia in corso, acquista ancora più significato. La prima parte della puntata di oggi dell'Indigesto la dedichiamo proprio a questo tema attraverso vari contributi, vari interventi. Abbiamo diversi ospiti che vi vado a presentare. Innanzitutto Chiara Bodini, che è una ricercatrice su temi come disuguaglianza, salute, movimenti sociali e salute, ed è portavoce del People's Health Movement. Gianluigi Trianni del Forum per il diritto alla salute, che avete già sentito anche su queste frequenze, e Marina D'Altri, co-presidente di Coalizione Civica Bologna. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti e tutti. Buon pomeriggio. Allora, io comincerei con Chiara per avere una panoramica magari anche un po' più generale sia su questa giornata che ovviamente sulla situazione contingente che stiamo vivendo. Si parla di giornata mondiale della salute, quindi di diritto alla salute. Come possiamo approcciare il tema quest'anno? Questa giornata mondiale della salute da qualche anno per i movimenti per il diritto alla salute in Europa e nel mondo è diventata una giornata di lotta per difendere e promuovere la sanità pubblica. Sappiamo che i servizi sanitari pubblici sono la migliore garanzia, più efficace, più equa per tutelare la salute, e sappiamo che questi servizi sono sotto attacco, sono stati smantellati in moltissimi paesi perché forze del mercato e del privato cercano di ampliare le loro sfere di profitto anche a questo ambito. E il 7 aprile, quindi, l'invito già da diversi anni è quello a prendere parola, di prendere voce come persone, come non solo operatori o operatrici sanitarie, ma proprio come cittadini e cittadine, per dire che la salute è un diritto, non è una merce, e va difesa attraverso servizi sanitari pubblici, universalistici e basati sulla solidarietà. Ovviamente la pandemia di Covid-19 ha mostrato e sta mostrando in maniera drammatica che cosa significa avere o non avere un servizio sanitario funzionante. Nel nostro paese il servizio sanitario ha subito negli anni tagli, definanziamenti, sottrazione di risorse, un indebolimento soprattutto dei servizi territoriali, che quindi stanno mostrando la loro vulnerabilità, purtroppo con esiti molto negativi sia per la salute delle persone sia per la salute di chi lavora nei servizi stessi. Quindi l'invito per oggi che noi abbiamo fatto ormai da tempo e che rinnoviamo è quello di esporre tutte e tutti alle nostre finestre, nelle nostre case, degli striscioni, dei cartelli per dire che la salute non è in vendita e per dire che vogliamo una sanità pubblica che possa tutelarci ora, soprattutto nel caso di questa pandemia, ma anche come migliore garanzia della salute nel futuro. Sembra di capire che comunque il tema di fondo che ritorna in vari contesti, ma anche e soprattutto in quello della salute, in questo momento, ma più in generale, è quello delle disuguaglianze. Sì, non c'è dubbio, purtroppo non siamo tutti uguali davanti al virus, il rischio di contrarre l'infezione è diversificato, le possibilità, diciamo, di proteggersi non sono le stesse. Noi da tempo mettiamo in luce che la salute e la malattia non si distribuiscono ugualmente nella popolazione, ma sono correlati fortemente a fattori di tipo sociale, politico, economico e culturale. In questo senso però un servizio sanitario pubblico è una forma di tutela contro le disuguaglianze, perché è un servizio che, se funziona, si sostiene con contributi che sono proporzionali a quello che le persone possono dare e risponde in funzione ai bisogni. Quindi è uno strumento fortissimo di coesione sociale e di redistribuzione. Una battuta sulla percezione. Ora ci ritroviamo, siamo precipitati in questa situazione di pandemia. Pensi che la sensibilità delle persone verso il diritto alla salute, quindi una salute pubblica universale, stia aumentando? È sicuramente la speranza che abbiamo. E diciamo che la ricezione dei messaggi quest'anno è stata particolarmente forte. La campagna sta andando particolarmente bene in termini di portata. Non dimentichiamoci anche che molti governi europei stanno facendo delle cose che non hanno mai fatto, non avrebbero mai fatto in termini di contrattazione o addirittura requisizione del capitale privato in sanità, dei presidi e della forza lavoro privata in sanità per fronteggiare l'emergenza. E noi stiamo facendo un monitoraggio come People's Health Movement di questi atti che i governi stanno facendo per capire se e come sarà possibile poi, una volta finita la crisi, fare leva su queste iniziative per proporre una sempre maggiore estensione del pubblico e riduzione del privato in sanità. Da bambino volevo guarire i ciliegi, quando rossi di frutti li credevo feriti, la salute per me li aveva lasciati, coi fiori di neve che avevan perduti. Un sogno fu un sogno, ma non durò poco, per questo giurai che avrei fatto il dottore. E non per un dio, ma nemmeno per gioco, perché i ciliegi tornassero in fiore, perché i ciliegi tornassero in fiore. E quando dottore lo fui finalmente, non volli tradire il bambino per l'uomo, e vennero in tanti e si chiamavano gente, ciliegi malati in ogni stagione, e i colleghi d'accordo, i colleghi contenti, nel leggermi in cuore tanta voglia d'amare, mi spedirono il meglio dei loro clienti, con la diagnosi in faccia e per tutti era uguale, ammalato di fame incapace a pagare. E allora capii, fui costretto a capire, che fare il dottore è soltanto un mestiere, che la scienza non puoi regalarla alla gente. Se non vuoi ammalarti dell'identico male, se non vuoi che il sistema ti pigli per fame. Abbiamo fatto, come dire, un'introduzione generale, cerchiamo di capire anche qualche applicazione pratica. Allora passo a Gianluigi Trianni. L'abbiamo sentito anche sulle nostre frequenze pochi giorni fa. Il Forum per il diritto alla salute ha chiesto il ritiro del regionalismo differenziato, che proprio le tre regioni più colpite, cioè Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, hanno avanzato tempo fa al governo. Come sta andando questa campagna? La campagna, intanto la ringrazio per aver chiamato questo aspetto, sta andando bene. Abbiamo avuto l'adesione di ben 26 associazioni alla nostra iniziativa, che nei prossimi giorni verrà proposta ufficialmente al presidente Bonaccini, alla vicepresidente e alla giunta. Qui le adesioni cominciano ad essere di associazioni e non solo di singoli. Credo che il tema del regionalismo differenziato, questo obiettivo politico, sia particolarmente attuale oggi. Proprio nei giorni, in questi giorni, si va discutendo in sede di rappresentanti politici, ma anche in sede di opinionisti, il fatto che il regionalismo differenziato, il modello sanitario regionalizzato, sia uscito con le ossa rotte dalla vicenda Covid-19, e molti si spingono a chiedere la revisione del titolo quinto della Costituzione, il quale assegnava la competenza della tutela della salute alla legislazione concorrente tra il Parlamento e le assemblee regionali. Questa situazione ha portato in Italia ad avere 21 sistemi sanitari diversi. Dico 21 perché alle regioni ordinarie vanno aggiunte, oltre alle speciali, anche le due province autonome di Trento e Bolzano, per cui arriviamo a 21, e abbiamo, tutta la popolazione ha sperimentato come questo frazionamento regionale di fronte all'epidemia abbia generato non coordinamento delle necessarie iniziative. La situazione peggiore si è verificata in Lombardia, dove maggior intensità i governi lombardi di centrodestra, guida leghista, hanno costruito un modello basato sulla distruzione dei servizi territoriali, mi riferisco all'organizzazione dei medici di base al Dipartimento di Cure Primarie e anche alla distruzione dei servizi di prevenzione e alla privatizzazione di oltre il 50% dei posti letto per acuti. L'altro grande dramma delle residenze sanitarie assistenziali per anziani è un problema diffuso in tutta Italia, e in tutta Italia queste residenze sanitarie per anziani sono prevalentemente private o appaltate, di pubbliche ce n'è molto poche, e anche lì abbiamo visto come questo modello non ha retto. Ecco, di fronte allora alla fase nella quale siamo e al ragionamento su come si debba uscire e ripartire dall'epidemia, il Forum per il diritto alla salute con i suoi documenti dice in maniera molto chiara che non dobbiamo in questo momento impegnarci nella rettifica della Costituzione, dobbiamo piuttosto impegnarci nel ribaltamento delle politiche, da una politica di austerity e di tagli del servizio sanitario pubblico a una politica di forti investimenti sia sul sistema sanitario pubblico che sulla ricerca universitaria, che noi riteniamo debba essere poi fatta in realtà in continuità e in collaborazione strettissima con il Servizio Sanitario Nazionale. Noi proponiamo addirittura 40 miliardi di investimento nei prossimi 4 anni per il Servizio Sanitario Nazionale e 20 per le attività di ricerca da fare insieme col Servizio Sanitario Nazionale. Ovviamente queste cifre in gran parte vanno spese per l'acquisizione di personale, che ovviamente non va messo solo negli ospedali, ma va finalizzato a ricostruire i servizi territoriali e quindi a mettere di nuovo al centro il sistema pubblico come baluardo della salute pubblica, che è un elemento fondamentale dei diritti costituzionali e dei diritti umani. Ecco, in questo momento la questione centrale è ribaltare la politica di austerity e fare una grande politica di investimento sul servizio sanitario pubblico, di limitazione della privatizzazione, togliendo le agevolazioni fiscali che facilitano il ricorso al privato e al privato anche tramite le assicurazioni. Questo è l'elemento centrale che andremo a proporre e sul quale andremo a sfidare la Giunta Bonaccini. In questa situazione in Italia, diciamo, durante questa epidemia si è registrato anche un conflitto, diciamo così, abbastanza aperto, ad esempio tra il governatore della Lombardia e lo Stato, proprio sulla gestione del tema sanitario. Quale potrebbe essere un modello che eviti questo conflitto in futuro? Intanto dobbiamo purtroppo dire che questo conflitto ha messo in evidenza sia le deficienze dell'estrema regionalizzazione e quindi ai limiti della secessione proposto dalle regioni Veneto e Lombardia, sia purtroppo il disastro della l'impossibilità di andare a un'eccessiva centralizzazione, viste le grandi lacune che sono manifestate nella iniziativa sia del Ministero della Sanità che della protezione civile. Io personalmente credo che la vicenda della carenza di dispositivi di protezione individuale a livello nazionale, del quale tanti medici e tanti operatori sociosanitari si sono lamentati, ma anche altri operatori, e anche la vicenda dei reattivi che qua e là sembrano scarseggiare, e il tema anche delle più in generale dei laboratori analisi che non hanno retto il grande impatto in termini di efficienza, il grande impatto, l'incremento di domanda che è stato, è un problema che mette in evidenza anche difficoltà centrali nazionali. Basti pensare al piano per le pandemie che era stato messo a punto nel 2006 dopo un accesso di pandemia mondiale, che non è stato poi aggiornato, non è stato reso utilizzabile. In quel caso era stato fatto per una pandemia influenzale, ma i modelli, diciamo, valgono anche per questa epidemia da coronavirus. Abbiamo avuto una plastica dimostrazione come regionalizzare troppo e centralizzare troppo sia sbagliato. Noi abbiamo fatto una proposta nella quale crediamo molto. Riteniamo che si debba procedere non solo per la sanità ma per tutte le altre materie, così come si procede con il patto per la salute. In sostanza il governo contratta, condivide, costruisce insieme alle regioni le linee di indirizzo politico sulle quali si devono muovere le varie articolazioni dello Stato, sia le centrali che le regionali. Questo secondo noi è il modo per uscire, diciamo, da questa, per superare questo fallimento della politica di austerity e per fare una politica di investimenti positivi sulla sanità. Non possiamo disperdere le competenze dei funzionari regionali che hanno sostanzialmente moltiplicato per 20 le competenze del Ministero della Salute. Dobbiamo trovare un modo perché lo Stato unitariamente affronti questa svolta. E ribadisco, il modello in sanità ce l'abbiamo, è il modello del rapporto Stati-Regioni, dei piani per la salute. Sottolineo che i piani per la salute, anche l'ultimo che il governo ha approvato, hanno un limite, che è un limite non di metodo ma di contenuto politico, perché l'ultimo piano per la salute approvato dal governo in carica insieme alle regioni è un piano per la salute che di nuovo propone una politica di austerity, un'insufficiente copertura delle piante organiche, non c'è un cenno adeguato sullo sviluppo di servizi territoriali. Lo strumento giusto è il patto per la salute, ma la questione centrale è cambiare le politiche. La situazione lombarda è inaccettabile, quindi diciamo andrebbe subito cassata come modello nazionale. Affiniamo ancora di più il focus, quindi dalla regione veniamo anche alla nostra città Bologna. Coalizione Civica appunto è impegnata sia in questa giornata che appunto nella salvaguardia della salute pubblica. Marina D'Altri, come lo state facendo? Partecipiamo già, è il terzo anno consecutivo che partecipiamo alla giornata mondiale della salute e alcune attivisti di Coalizione Civica sono attivi nel forum per il diritto alla salute. Quindi partecipano tutto l'anno ai lavori di questo del forum. Noi abbiamo iniziato a occuparci di salute nell'autunno del 2017, in quel periodo che è nato il nostro gruppo salute, che è tuttora molto attivo, ed è nato al Navile quando sono trapelate le prime notizie dell'apertura della Casa della Salute Navile, che è stata poi inaugurata, mi sembra, sì, esattamente 2 anni fa, a marzo del 2018. Tutto ciò, diciamo, è nato un po', ce ne siamo occupati perché i cittadini, ci siamo resi conto con la nostra consigliera Brunella Guida, che i cittadini del Navile non ne sapevano nulla, non erano stati minimamente coinvolti e non sapevano nulla dell'apertura di questa nuova Casa della Salute, di questo edificio che era verde, che insomma tutti conosciamo, era in costruzione, e quindi ci siamo interessati al modello, cioè abbiamo iniziato a studiare il modello delle Case della Salute. Le Case della Salute sono sostanzialmente un movimento di politica sanitaria che esiste da tanto tempo internazionale, che è dettata dalla transizione fra la prevalenza di malattie acute e la prevalenza attuale di malattie croniche quando non ci sono le pandemie. Quindi oggi il 70% dei servizi viene erogato al 25% della popolazione che è affetta da condizioni croniche, e quindi l'approccio deve essere in grado di offrire un accompagnamento di lunga durata alle persone in quelle che vengono, sono sono le case della salute e non necessariamente specialistiche. Quindi nelle case della salute ci dovrebbe essere un'integrazione alta, elevata, fra bisogni sanitari e bisogni sociali. Questo sostanzialmente è il modello ed è anche il modello della legge regionale che noi abbiamo studiato ed è scritta molto bene ed è una legge che rappresenta questo modello. Però poi noi ci siamo resi conto che nel passaggio fra i poliambulatori, delle competenze e delle specialità, quindi degli servizi offerti sanitari alla popolazione, alle case della salute, alla casa della salute navile, questo perdeva di forza, veniva depotenziato, quindi venivano depotenziati i servizi sanitari offerti dai poliambulatori o mantenuti, cioè non avviene minimamente quell'integrazione fra socio e sanitario che esiste, dovrebbe esistere nel modello delle case della salute. Poi ne è nata un'assemblea che lavora insieme alla commissione del quartiere, alla commissione welfare del quartiere Narvile, quindi noi abbiamo un presidio permanente sulle case della salute e nello specifico sulla casa della salute Navile. Vengo all'oggi, come ha funzionato, come hanno funzionato le case della salute a Bologna durante la pandemia, come stanno funzionando? Non hanno funzionato minimamente, questa a detta sia dei cittadini che degli operatori sanitari, perché dovrebbero essere un presidio territoriale socio-sanitario, ma di fatto non lo sono e non essendolo non hanno fatto la mappatura dei bisogni socio-sanitari dei cittadini del quartiere di riferimento e non hanno fatto quello che dovrebbe fare una casa della salute, cioè essere vicina ai cittadini più fragili, più deboli, agli anziani soli, alle famiglie con un disabile, alle famiglie con un ludopatico, una ludopatica, insomma tutti questi bisogni della fragilità, quindi bisogni socio-sanitari che in questo momento sono emersi, stanno emergendo in maniera forte. Questo servirebbe una casa della salute nei momenti, diciamo, non di pandemia, chiamiamoli normali, e tanto più dovrebbero servire per questo nei momenti di emergenza sanitaria come questa. Quindi purtroppo le case della salute non sono quello che vorrebbero essere e non riescono quindi a svolgere questa funzione di presidio territoriale sociosanitario per cui sono nate. C'è una ragione per cui, insomma, se avete capito che c'è una ragione per cui non riescono a svolgere il ruolo per cui sono pensate? Sono pensate, appunto, come ho detto, in teoria in maniera molto interessante, in funzione di quello che servirebbe veramente in questo momento storico a livello di salute, di presidio territoriale, non lo sono per le ragioni che diceva Triani, cioè il fatto che non sono finanziate, perché la sanità non è finanziata a dovere, quindi se va bene la casa della salute è stata semplicemente un poliambulatorio come a San Donato, dove stacchi la targhetta e metti la targhetta poliambulatorio e metti la targhetta casa della salute, dove invece nel contenitore non cambia assolutamente nulla. Peggio in quella del Navile, dove è stata depotenziata e abbassati in numero e in qualità, in numero sicuramente, i servizi dei poliambulatori Tiarini e Montebello. Quindi sicuramente è una questione di finanziamento, è una questione di personale, è insufficiente per fare questa operazione, per essere un presidio territoriale sociosanitario ed anche per molte ragioni, fra cui il fatto per esempio che i medici di base che sono regolati da un contratto diverso, da non solo dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, dovrebbero stare all'interno delle case della salute con i propri ambulatori, cosa che è già stato verificato non solo in Emilia Romagna ma in tutto il territorio nazionale. I medici non ci vogliono andare nelle case della salute, i medici e anche i pediatri, quindi che hanno contratti diversi, perché preferiscono stare piuttosto vicino a una farmacia o vicino o diffusi sul territorio in maniera diversa. È proprio un modello proposto ma non è riempito di senso, non è riempito di tutte le caratteristiche, è un modello che non si sta seguendo solo come nome. Insomma, bello il nome Casa della Salute, è un nome accogliente, è un nome che dà l'idea di un abbraccio, di una presenza sul territorio meno asettica del nome poliambulatorio, ma di fatto è solo un poliambulatorio, forse anche meno di un poliambulatorio delle volte. Per concludere ritorno a Chiara Bodini per così velocemente raccontarci quali sono le iniziative che avete messo in campo in questa giornata. Iniziative necessariamente sono da fare a casa o da casa, quindi purtroppo gli scorsi anni eravamo nelle piazze, quest'anno non è possibile, quindi l'invito per tutte le persone, e in realtà è già iniziato, cioè è una settimana che le persone stanno cominciando a predisporre cartelli, manifesti, striscioni per esporli nelle loro finestre, nei loro balconi. Come ripeto, la mobilitazione è europea, quindi se andate sul sito, su Facebook, c'è l'evento Facebook, si chiama 7 April Our Health is Not for Sale. Il riferimento italiano è la campagna Dico 32, anche questa c'è una pagina Facebook con tutti i rimandi, con tutte le indicazioni. Ovviamente mi preme dire anche una cosa, il 7 aprile lasciato a se stesso non porta a granché, quindi è sicuramente un momento di emersione di queste lotte, dove queste lotte vengono, si spera insomma che acquisiscano una dimensione, una visibilità pubblica maggiore, però come diceva anche Gianluigi Triani prima, la battaglia va portata avanti tutti i giorni nei diversi posti, nei diversi luoghi, nell'assemblea della Casa della Salute, piuttosto che nelle istanze vertenze che si possono fare con il governo regionale o nazionale, con i nostri rappresentanti politici, quindi l'importanza anche del Parlamento europeo, presso cui la rete europea contro la commercializzazione della salute sta agendo in maniera abbastanza efficace, quindi con targetizzando insomma, in modo mirato alcuni esponenti del Parlamento che possano portare avanti queste istanze a quel livello. Quindi ci sono poi molteplici fronti di impegno che al di là e oltre il 7 aprile sicuramente porteremo avanti. Ovviamente non abbiamo esaurito il tema, che è immenso, però qualche spunto interessante è arrivato, quindi io vi ringrazio davvero per la vostra disponibilità. Ci sentiremo anche nelle prossime occasioni, anche perché appunto la situazione globale di certo non si sta esaurendo. Grazie mille. Grazie, buongiorno. Grazie, buon pomeriggio. I've been too sick to pray, Lord. That's why we ain't talked in a while. It's been some of them days, Lord. I thought I was on my last mile, but I'm feeling okay, Lord. And I'm glad that I called you today. I never needed you more. I would have called you before, but I've been too sick to pray. Remember the family, Lord. I know they will remember you and all of their prayers, Lord. They talk to you just like I do. Well, I reckon that's all, Lord. That's all I can think of to say. And thank you, my friend. We'll be talking again if I'm not too sick to pray.